Vidi appena Meneval aprire l'armadio. Poi entrai nella medesima stanza nella quale alcuni anni prima avevo supplicato invano per la vita del duca d'Enghien. La stanza non era molto cambiata. Gli stessi tavolini, gli stessi fasci di carte. Probabilmente le carte non erano più quelle. Sul tappeto davanti al camino erano sparsi dei blocchetti di legno di diverso colore. Involontariamente mi chinai e ne raccattai uno rosso. Che cosa sono? Giocattoli del re di Roma? Sì e no. Mi servo di questi legnetti quando preparo una campagna di guerra. Vedete, ciascuno di essi rappresenta un determinato corpo d'esercito e i dentelli indicano le divisioni di cui il corpo dispone. Il legnetto rosso che avete in mano è il terzo corpo, il corpo del maresciallo Ney, ha 5 dentelli. Il corpo del maresciallo Ney comprende 5 divisioni e questo è il legno azzurro con i 3 dentelli e il corpo di Marmont. In 3 divisioni. Quando dispongo questi legnetti sul pavimento, vedo con tutta chiarezza davanti a me un ordine di battaglia. La carta geografica l'ho nella testa, è semplicissimo. Non li succhiate anche i legnetti, per caso? Domandai e osservai stupita il blocchetto che tenevo in mano e che appariva rosicchiato. No, questo è il piccolo re di Roma. Ogni volta che lo portano nel mio studio, va subito a tirar fuori i legnetti colorati. Sa dove li custodisco e allora li disponiamo insieme, il mio aquilotto ed io, e ogni tanto ne rovescia qualcuno. Dio solo sa perché, per lo più succhia il corpo dell'ottimo Ney. Deposi di nuovo sul pavimento il legnetto rosso. Volevate dirmi qualcosa, sire? Io mi rifiuto di parlare con Vostra Maestà di Sua Altezza Reale, il principe ereditario di Svezia. E chi parla di Bernadotte? Fece un gesto di ripugnanza. Non era questa Eugenia, era soltanto. Si accostò a me vicinissimo e mi guardò fisso, come se volesse imprimersi ogni mio tratto nella mente. Ecco, quando hai detto d'improvviso che dovrò osservare un buon ricordo di te perché ti congedi per sempre, ho pensato. Si voltò bruscamente e si avvicinò alla finestra. Non ci si può separare così. Quando ci si conosce da tanto tempo, non è vero? Io stavo presso il camino e con la punta del piede giocherellavo con i variopinti elementi di un esercito. Il corpo di Ney, il corpo di Marmont, il corpo di Bernadotte. Non c'è più. C'è al suo posto un esercito, un intero esercito che comprende truppe svedesi, russe, prussiane, l'armata Bernadotte dall'altra parte. Ho detto che non ci si può separare senz'altro così, disse la voce dalla finestra. E perché no, sire? Si voltò. Perché no? Eugenia, hai dimenticato i giorni di Marsiglia, la siepe, il prato, le nostre conversazioni sul romanzo di Goethe. La nostra giovinezza, Eugenia, la nostra giovinezza. Tu non hai affatto capito perché sono venuto da te. Voglio dire, quella sera quando tornavo dalla Russia. Avevo tanto freddo, ero stanco e tanto solo. Imbruniva. Nessuno venne ad accendere le candele per non disturbarci. Non riuscivo più a distinguere i suoi lineamenti. Che cosa voleva da me, insomma? In queste settimane ho allestito un nuovo esercito di 200.000 uomini. Dal canto suo, l'Inghilterra si è impegnata di pagare alla Svezia 1 milione di sterline per armare le truppe di Bernadotte. Lo sapevate, madame? Non diedi risposta. D'altronde non lo sapevo. Sapete chi ha consigliato Bernadotte a passare alla stampa nemica la lettera che mi ha scritto? Madame de Staël è a Stoccolma, da lui. Probabilmente la sera si fa leggere da lei i suoi romanzi, lo sapevate, madame? Sì, lo so, non importa, perché mi ricorda questo? Sembra che a Stoccolma Bernadotte non riesca a trovare una compagnia più piacevole. Ma sì, sire, Mademoiselle Georges. È stata invitata e recentemente ha recitato con gran successo a Stoccolma e si era allegrata della benevolenza di Sua Altezza Reale. Lo sapevate, sire? Dio mio, Giorgina, la piccola dolce Giorgina. Sua Altezza Reale rivedrà presto il suo vecchio amico Moreau. Moreau tornerà in Europa e combatterà sotto l'alto comando di Giambattista. Lo sapevate, sire? Fortuna che l'oscurità stava tra noi due come una parete. Dicono che lo zar abbia promesso a Bernadotte la corona di Francia, disse lenta la sua voce. Una pazzia, ma assolutamente possibile. Se Napoleone sarà vinto, allora. Già, che avverrà allora? Ebbene, madame, se Bernadotte anche soltanto accarezzasse questo pensiero, sarebbe il più nero dei tradimenti che mai siano stati commessi da un francese. Certamente. Tradimento delle proprie convinzioni. Posso congedarmi, sire? Se mai vi sentiste poco sicura a Parigi, madame, voglio dire, se il popolo vi molestasse, dovete rifugiarvi subito da vostra sorella Giulia, me lo promettete? Sì, certamente, e viceversa. Che cosa significa questo viceversa? Che la mia casa sarà sempre aperta per Giulia, resto qui appunto per questo. Ah, tu dunque fai conto sulla mia disfatta, Eugenia? Mi venne vicinissimo. L'odore delle tue violette stordisce, dovrei farti espellere. Probabilmente tu vai raccontando a tutti che l'imperatore sarà battuto, e poi non mi piace che tu vada spesso in carrozza con quel lungo svedese. Ma è il mio aiutante, devo sempre condurlo con me. Eppure, tua madre buonanima non sarebbe stata contenta, e Stefano neppure, il tuo austero fratello. Cercò la mia mano e se la portò alla guancia. Oggi almeno vi siete fatto la barba, sire, dissi, e ritrassi la mano. Che peccato che tu sia la moglie di Bernadotte, mormorò. In fretta raggiunsi tentoni la porta. Eugenia! Ma io già mi trovavo nella luce del gabinetto grande. I signori sedevano intorno allo scrittoio e bevevano del liquore. Talleyrand doveva aver detto appunto qualche facezia, perché Meneval, Colincourt e il mio svedese si sbellicavano dalle risa. «Fateci ridere con voi, signori», disse l'imperatore. «Stavamo dicendo che il Senato ha approvato la coscrizione di 250.000 reclute per il nuovo esercito», disse Meneval, quasi scoppiando dal ridere. «E che si tratta di due classi chiamate in anticipo, il 1814 e il 1815, proprio dei bambini», continuò Colincourt. «E allora il principe di Benevento ha detto che l'anno venturo ci dovrà essere almeno un giorno intero d'armistizio perché il nuovo esercito di vostra maestà possa essere cresimato e comunicato». Rise anche l'imperatore, ma non era un riso sincero. «Le reclute hanno l'età di Oscar. Questo non è da ridere. È triste», dissi io, e mi inchinai per l'ultima volta. Questa volta l'imperatore mi accompagnò fino alla porta. Non scambiammo più parola. Durante il ritorno domandai a Rosen se era vero che lo zar avesse offerto a Giambattista la corona di Francia. «Non è più un segreto per nessuno questo in Svezia. Forse l'imperatore ne è informato?» Accennai di sì. «E di che cosa ha parlato poi?» domandò Rosen timidamente. Io riflettei, di colpo mi strappai dalla scollatura, il mazzolino delle violette lo gettai fuori dalla finestra. «Di violette, conte, niente altro che di violette!» Quella stessa sera mi fu recapitato un piccolo pacco dalle Tuilerie. Il lacchè disse che era per il principe ereditario di Svezia. Lo aprii e vi trovai un legnetto rosicchiato, verde, con 5 dentelli. Quando vedrò Giambattista, glielo consegnerò. Parigi, estate 1813. Il cocchiere ha portato Pierre in giardino. Io seggo presso la finestra e osservo Maria che porta una limonata a suo figlio. Intorno ai rosai ronzano le api. Odo anche il passo di marcia dei reggimenti che passano sulla strada, in cadenza, sempre con lo stesso ritmo. Napoleone ha fatto fondere i lingotti d'oro che teneva nascosti nei sotterranei delle Tuilerie e che avevano, si dice, il valore di 140 milioni di franchi per equipaggiare i suoi nuovi reggimenti. È buffo pensare che una volta io gli abbia dovuto prestare i miei piccoli risparmi. 140 milioni! Allora io non desideravo che di comprargli una vera uniforme da generale. Certo, questo è ormai molto lontano. Frattanto i figli della Francia sono morti in Russia e i bambini della Francia delle classi 1814 e 1815 marciano in guerra. Oh, una gran parte di essi è stata assegnata ai reggimenti della guardia, ma poiché non si possono combattere delle guerre con dei ragazzi che non hanno ancora fatto una manovra, l'imperatore ha chiamato senz'altro alle armi come fanti tutti gli artiglieri di marina. All'alba si raccolgono gli ultimi cavalli che ancora si trovano nelle stalle dei contadini per tirare carri e cannoni, e i cavalli per la cavalleria, dove li prenderà? Ogni città di Francia ha ricevuto l'ordine di dare una compagnia di volontari all'imperatore. Parigi ha allestito addirittura un reggimento. 10.000 guardisti hanno pagato di tasca loro il proprio equipaggiamento e la gendarmeria manda al fronte 3.000 uomini come ufficiali e sottufficiali perché vi è penuria di militari esperti. L'atmosfera mi ricorda quei giorni della giovane Repubblica, quando si trattava di difendere ad ogni costo le frontiere, e anche adesso si sente che in realtà si tratta soltanto della difesa dei confini, ma si sono chiamati per questo dei ragazzi, e i ragazzi cantano la Marsigliese, mentre a tutti gli angoli delle vie s'appoggiano i mutilati e gli ospedali ancora rigurgitano. Le donne che vanno con le sporte al mercato hanno un aspetto squallido e stanco, notti insonni, angosce senza limiti, attese, incontri e comunicati hanno rapito loro gli anni belli della vita. Giù nel mio giardino, Piera ha terminato di bere la sua limonata. Maria ha deposto il bicchiere sull'erba e si è seduta accanto a suo figlio. Lo cinge col braccio per sorreggergli la schiena. La gamba destra congelata gli è stata amputata alla coscia, al troncone della sinistra che fu tagliata sopra il ginocchio. Si spera di poter applicare una gamba di legno quando sarà guarita la piaga. Ma la piaga non vuol guarire. Quando Maria cambia la fasciatura, Pier piange per il dolore come un bambino. Gli ho dato la camera di Oscar e Maria dorme con lui, ma dovrò trovargli una stanza al pian terreno. È troppo faticoso portarlo sempre su e giù per le scale. Verso sera è venuto a visitarmi Talleyrand, apparentemente per informarsi ancora se io non mi senta troppo abbandonata. Quest'estate sarei rimasta sola in tutti i casi. Purtroppo sono avvezza ad avere mio marito al fronte. Egli annuì, sì, al fronte, ma in tal caso vostra altezza sarebbe stata sola, non però abbandonata. Alzai le spalle. Eravamo seduti in giardino e la Laflotte mesceva dello champagne freddo. Come se la sono squagliata presto i nostri alleati. Osservò Talleyrand tra un sorso e l'altro. Primi di tutti i prussiani. D'altra parte essi sono agli ordini del vostro signor marito. Vostro marito ha stabilito il suo quartier generale a Stralsunda e comanda l'armata alleata del nord. Annui. Rosen me l'ha detto. Nel Moniteur si dice che l'imperatore d'Austria tenterà una mediazione per far concludere un armistizio tra la Francia e la Russia, dissi io poi. Talleyrand passò alla Laflotte il suo bicchiere vuoto. L'Austria fa da mediatrice per guadagnare tempo e armarsi. Ma l'imperatore d'Austria è il padre della nostra imperatrice, disse aspra Madame Laflotte. Talleyrand l'ascoltò e guardò il suo bicchiere semivuoto. Se la Francia sarà battuta, tutti gli stati alleati cercheranno di arricchirsi a nostre spese. L'Austria non vuole naturalmente uscirne a mani vuote e così si unisce agli alleati. La mia bocca era arida. Dovetti bere prima di parlare. Ma l'imperatore d'Austria non può fare la guerra a sua figlia e al suo nipotino. Non può? Ma, cara altezza, sta già facendola, sorrise. Solo che questo non c'è nel Moniteur, madame. Non dissi nulla. Gli eserciti alleati hanno 800.000 uomini sotto le armi e l'imperatore neppure la metà, annunciò sorridendo. Ma sua maestà è un genio, disse la Laflotte con labbra tremanti. Pareva che ripetesse una frasetta imparata a memoria. Talleyrand le passò il suo bicchiere vuoto. Esatto, madame. Sua maestà è un genio. La Laflotte versò ancora dello champagne. E poi l'imperatore ha costretto i danesi, i nostri alleati, a dichiarare guerra alla Svezia. Vostro marito ha i danesi alle spalle, continuò Talleyrand disinvolto. Saprà cavarsi d'impaccio. Dissi io impaziente mentre pensavo, dovrò trovare un'occupazione per Pierre, questo è ciò che più importa, un'occupazione regolare. Avete detto qualche cosa, eccellenza? Soltanto questo, che non è lontano il giorno nel quale verrò a rivolgervi la mia preghiera, disse Talleyrand, e si alzò. Salutatemi mia sorella se la vedete, eccellenza. Purtroppo Giulia non può farmi visita, Re Giuseppe le ha proibito di entrare in casa mia. Aggrottò le sottili sopracciglia. Noto anche l'assenza dei vostri fedeli aiutanti, altezza. Oh, il colonnello Villate è partito da un pezzo. Ha già fatto la campagna di Russia e il conte Rosen, lo svedese alto e biondo, me ne rammento. Mi ha confessato alcuni giorni fa che come nobile svedese si sente in dovere di combattere al fianco del suo principe ereditario. È assurdo. È soltanto geloso del conte Brahe, dell'aiutante personale, intervenne l'Alaflot. No, ha detto sul serio. Gli svedesi sono un popolo molto serio, madame. Cavalcate con l'aiuto di Dio e ritornate sano e salvo, gli ho detto, proprio come avevo detto a Villat. Avete ragione, eccellenza, sono abbandonata. Stetti a guardare, mentre se ne andava zoppicando. Talleyrand sa zoppicare con tanta grazia ed eleganza. Intanto decisi di incaricare Pierre dell'amministrazione del mio denaro e della direzione della casa. Penso che sia una buona idea. Parigi, novembre 1813. Da oltre una settimana corre voce a Parigi che intorno a Lipsia si sta combattendo una battaglia decisiva. Nessuno ne conosce i particolari. Dal fornaio si dice che tutto dipende da questa battaglia, così mi ha riferito Maria. Come mai le donne che vanno a far spesa dal fornaio possono sapere quello che succede? Ma forse anch'esse se ne stanno insonni nei loro letti o fanno sogni paurosi. Per questo credetti anch'io di aver sognato dei cavalli mentre li udivo. Aprii gli occhi. La mia candela era quasi consumata. Solo confusamente potei distinguere le lancette dell'orologio. Le 4:30 del mattino. Un cavallo nitrì. Mi drizzai sul letto e stetti ad ascoltare. Poi qualcuno bussò cautamente alla porta. Così cautamente che io mi convinsi che nessuno doveva avere udito. Mi alzai e mi buttai addosso la vestaglia. Discesi le scale. Nell'atrio il mio lume si spense. Udii allora che bussavano un'altra volta, cautamente per non spaventare nessuno. Chi c'è? Domandai. Villat! E quasi contemporaneamente, Rosen! Tirai il pesante catenaccio. Nel lume della lanterna grande che appesa sopra la porta di casa, distinsi due sagome umane. Per l'amor del cielo, di dove venite? Da Lipsia, disse Villat. Portiamo i saluti di Sua Altezza, soggiunse Rosen. Tornai indietro nell'atrio, rabbrividendo per il freddo, e mi strinsi addosso la vestaglia. Rosen cercò tentoni uno dei candelabri e accese una candela. Villat era scomparso, probabilmente per condurre i cavalli in scuderia. Rosen indossava un cappotto e una berretta di pelo d'orso da granatiere francese, un'uniforme curiosa per un dragone svedese, osservai. Le nostre truppe non sono ancora in Francia. Sua Altezza mi ha spedito qui con questo buffo cappotto e questo ridicolo berretto perché passassi senza difficoltà. Io sussultai. Trovate il berretto dei granatieri proprio ridicolo? In quel punto tornò Villat. Abbiamo cavalcato notte e giorno, mormorò. Il suo viso era emaciato ed esausto. I peli della barba non rasata lo facevano apparire bluastro. E poi, senza alcun nesso, abbiamo perduto la battaglia decisiva. Vinta l'abbiamo! E Sua Maestà ha preso d'assalto Lipsia, sbottò Rosen con impeto. Nello stesso momento in cui Sua Altezza entrava in Lipsia per la porta di Grimm, Napoleone fuggiva dalla città. Sua Altezza ha combattuto alla testa delle sue truppe dal principio alla fine. E perché non siete con l'esercito in fuga, colonnello Villat? Sono prigioniero di guerra, Altezza. Prigioniero di Rosen? L'ombra di un sorriso guizzò sul volto di Villat. Beh, in certo modo, sì. Sua Altezza non mi ha fatto avviare ai baraccamenti con gli altri prigionieri, ma ha voluto che venissi subito a Parigi, a cavallo, per essere al vostro fianco, Altezza, finché. Finché? Fino a che le truppe nemiche non saranno entrate a Parigi. Venite, signori, andiamo in cucina, vi farò del caffè. Vado a svegliare il cuoco, Altezza. E perché, conte Rosen? So fare dell'ottimo caffè. Vorreste essere tanto gentile da accendere il fuoco? Rosen cacciò maldestro alcuni pesanti ciocchi di legno nel camino. Ah, questi conti. Mettete prima dei trucioli, Rosen, altrimenti non si accende. Oh, aiutatelo, Villat. Credo che il conte non abbia mai avuto a che fare con un camino in tutta la sua vita. Villat fece il fuoco e vi misi un pentolino con l'acqua. Poi tutte e tre ci sedemmo al tavolo della cucina e aspettammo. Gli stivali, le mani, le facce dei due uomini erano sporchi di fango. La battaglia fu combattuta il 17 e il 18 ottobre. Nella mattinata del 19 Bernadotte prese Lipsia d'assalto, disse Villat con voce incolore. È sano, Giambattista. Lo avete visto, Villat? Sta bene? Molto bene. L'ho visto con i miei occhi in mezzo alla carneficina. Davanti alle porte di Lipsia c'è stata una vera carneficina, madame. E Bernadotte è stato sempre in perfetta salute. Oh, gli avete parlato, Villat? Sì, dopo la disfatta, madame, la disfatta della Francia. Dopo la vittoria, colonnello Villat, non ammetto. La voce di fanciullo di Rosen si alterò. Che aspetto aveva Villat? Voglio dire, dopo. Villat alzò le spalle e guardò fisso la pallida fiamma del lume ad olio sul tavolo della cucina. L'acqua bolliva, feci il caffè, poi disposi sulla tavola le rozze tazze della servitù e le riempì. Villat, che aspetto aveva? Ha fatto i capelli grigi, madame. Il caffè era amaro. Avevo dimenticato lo zucchero. Mi alzai e cercai la zuccheriera e subito mi vergognai perché non mi raccapezzavo nella mia stessa dispensa. Finalmente rintracciai lo zucchero e lo deposi sul tavolo. Vostra Altezza fa il caffè meravigliosamente, disse Rosen rapito. Lo dice anche mio marito. Una volta gli facevo sempre il caffè nero quando lavorava di notte. Raccontatemi tutto quello che sapete, conte. Ah, se sapessi da che parte incominciare, con tutto quel che è successo. Raggiunsi Sua Altezza al castello di Trachtenberg. E fui presente quando Sua Altezza illustrò il piano di tutta la campagna allo zar, all'imperatore d'Austria e allo Stato Maggiore degli Alleati. I due imperatori e i loro generali stavano curvi sulle carte geografiche. Sua Altezza invece non teneva davanti a sé neppure un pezzo di carta. Mentre parlava, guardava la parete di fronte e diceva intanto i nomi di piccoli villaggi e di alture affatto sconosciuti. Il piano di Sua Altezza venne accettato, senza discussione, all'unanimità. Sua Altezza propose che si dividessero le forze alleate in tre armate, facendole poi avanzare in semicerchio contro Napoleone. Non appena Napoleone avesse preso contatto con una di queste armate, le altre avrebbero attaccato i suoi fianchi, tagliandogli le linee di ripiegamento. E qualcuno disse a Sua Altezza: È un piano geniale! E Sua Altezza rispose: Sì, ma non è nuovo. È la sperimentata tattica di Napoleone. Servì dell'altro caffè, un orologio suonò le 5:30. E poi? Insistetti. Sua Altezza comandava l'armata del Nord e dapprima stabilì il suo quartier generale a Stralsunda. Poi venimmo a Berlino e Sua Altezza dimorò a Charlottenburg. Da Berlino Sua Altezza prese posizione presso Großbären. Là Sua Altezza diede la prima grande battaglia, fummo dapprima presi sotto il fuoco d'artiglieria di Oudinot e poi gli ussari di Kellermann tentarono di spezzare la nostra linea. Dietro di loro marciava una divisione di fanteria. La divisione Dupin, madame, osservò Villat, tutti i reggimenti che avevano servito per anni al comando di Bernadotte. Ah, come ha potuto reggere a questo, Giambattista? Come hai potuto reggere? Solo a questo punto Sua Altezza diede ordine di carica ai cosacchi. I cosacchi si lanciarono sul fianco dei francesi e si scatenò allora un tumulto d'inferno. Il nemico sapeva esattamente su quale altura si trovava Sua Altezza. Tutto intorno a noi cadevano le palle di cannone, ma Sua Altezza se ne stette immobile a cavallo per ore e ore. Di sotto, nella pianura, balenavano sciabole, baionette. Alte sulle teste ondeggiavano le aquile francesi. Da ultimo tutto fu avvolto entro nuvole di fumo. Non si poteva vedere più nulla, ma Sua Altezza sembrava che sapesse esattamente ciò che succedeva. I suoi ordini si susseguivano senza interruzione. Soltanto dopo la carica dei cosacchi fece sparare le nostre artiglierie pesanti. Rosen riprese fiato. E poi? Insistetti ancora. Il conte si passò la mano sulla fronte. E poi incominciò a piovere. Misi un mantello sulle spalle di Sua Altezza, ma Sua Altezza subito se ne liberò. L'aria si era molto raffreddata, ma sulla fronte di Sua Altezza vi erano delle grosse gocce di sudore. Verso sera, finalmente, i francesi si ritirarono. Allora, sì, allora Sua Altezza passò a cavallo da un reggimento all'altro e ringraziò le truppe. Il conte Brahe ed io lo accompagnammo presso la tenda del generale prussiano Bülow. Vedemmo ad un tratto dei prigionieri francesi, circa 2000, credo. Stavano sull'attenti. I prussiani esigono che i loro prigionieri stiano sempre sull'attenti. Quando Sua Altezza vide i prigionieri, sussultò. Sembrava che volesse tornare indietro, ma poi serrò le labbra e trottò verso di loro. Lentamente cavalcò davanti a tutta la linea, guardandoli in faccia uno ad uno. Una volta si fermò e rassicurò in francese che gli era più vicino, dicendogli che avrebbe provveduto al vitto e all'assistenza dei prigionieri. L'uomo non gli diede risposta. Sua Altezza passò oltre e improvvisamente mi parve stanchissimo. Stava in sella tutto piegato in avanti. Solo quando vide le aquile si trasfigurò. E che cosa accadde? Che cosa accadde quando Bernadotte vide le aquile? Domandò aspro Villatte. Il generale prussiano aveva fatto piantare davanti alla sua tenda le bandiere e le aquile conquistate. Era un arbitrio perché Sua Altezza non aveva impartito alcun ordine circa le insegne prese sul campo. Così i prussiani le avevano piantate in bell'ordine davanti alla tenda del loro generale e lì sfavillavano nella luce dei fuochi di bivacco. Quando Sua Altezza vide le aquile, si fermò e scese da cavallo. Poi si accostò alle insegne. Fece il saluto e si mise davanti ad esse sull'attenti, almeno per 2 o 3 minuti. Poi bruscamente si voltò e tornò a cavallo al suo quartier generale. E dopo? Non so. Sua Altezza si ritirò nella sua tenda e diede ordine di non lasciare entrare nessuno, neppure Brahe, il suo aiutante personale. Credo che Fernando gli abbia portato una tazza di brodo. Io versai dell'altro caffè. Naturalmente Sua Altezza già sapeva da un pezzo che la battaglia si sarebbe decisa presso Lipsia, disse Rosen. Lì dovevano congiungersi le tre armate alleate, lo zar, l'imperatore d'Austria e il re di Prussia stavano già aspettando l'armata del nord. Il lunedì 18 ottobre Sua Altezza fece mettere in posizione i nostri cannoni e diede ordine di attaccare la località di Schönefeld. Schönefeld era difesa da reggimenti francesi e sassoni al comando del maresciallo Ney. Cercai gli occhi di Villatte. Villatte, lo stanco Villatte, sorrideva. Come vedete, madame, l'imperatore ha lanciato contro Bernadotte le sue truppe più scelte, e tra queste naturalmente i sassoni. Non si era scordato di quel che aveva affermato Bernadotte, che i sassoni stanno sul campo come una falange di bronzo. Conte Rosen, come stavano i sassoni nella battaglia di Lipsia? Oh, se non l'avessi visto con questi miei occhi non lo crederei, Altezza. Fantastico! Ma prima della battaglia, Sua Altezza sparisce nella sua tenda e torna fuori in uniforme di gala. Non in uniforme da campagna? No, in uniforme di gala, per la prima volta in tutta la campagna. Mantello di velluto violetto che si scorge da lontano e penne di struzzo bianco sul tricorno. Non contento ancora, Sua Altezza chiede un cavallo bianco, poi fa suonare l'assalto, dà di sprone al cavallo e si lancia diritto verso le linee nemiche e i reggimenti. I reggimenti stanno come una falange di bronzo, non parte un solo colpo, rise Villatte. No, non un solo colpo. Brahe ed io galoppiamo alle spalle proprio davanti ai sassoni. Sua Altezza si ferma. I sassoni presentano le armi. Viva Bernadotte! Grida uno. Viva Bernadotte! Risponde un coro di voci. Sua Altezza alza il bastone di comando, volta il cavallo, torna indietro. Dietro di lui marciano i sassoni a passo di parata, con in testa la musica del reggimento. 12.000 uomini con 40 cannoni passano nelle nostre file. E Giambattista che cosa ha detto? Sua Altezza ha impartito brevemente i suoi ordini, indicando le posizioni sulle quali si dovevano portare i cannoni, disse Rosen. Durante la battaglia Sua Altezza stette ancora per ore e ore a cavallo. Adlercreutz, che gli era vicino, gli porgeva ogni tanto il binocolo. Sua Altezza ricusava. So già tutto, so già. Adesso il corpo Regnier si ritira. Fate occupare subito Schönefeld. È più tardi. Ney è già corto di munizioni. La sua artiglieria non spara più che ogni 5 minuti. La guardia cerca di resistere, ma non serve a nulla. La guardia cerca riparo nella città di Lipsia. Quando scese la notte, disse improvvisamente, l'imperatore si trova al quarto corpo. Vedete tutti quei fuochi di bivacco? Adlercreutz? Laggiù c'è Napoleone che impartisce i suoi ordini per le posizioni notturne. Solo quando tacque l'ultimo cannone, Sua Altezza scese da cavallo, si accostò ad un fuoco e si scaldò le mani. Ad un tratto chiese il cappotto blu scuro della sua uniforme da campo e un tricorno senza distintivi. E inoltre è un cavallo fresco, ma scuro, aggiunse, mentre montava a cavallo. Brahe gli domandò se avrebbe potuto accompagnare Sua Altezza. Sua Altezza lo guardò distrattamente, proprio come se non lo avesse mai visto prima. «Viene con me, Fernando», mormorò. Brahe se ne risentì profondamente. In fin dei conti, Fernando non è che un attendente. «Ah, assurdo», dissi io. «Fernando è un compagno di scuola di Giambattista. Giambattista è stato perfino cacciato da scuola per lui. Ma che cosa accadde poi quella notte?» Sua Altezza partì a cavallo accompagnato da Fernando. Non so dove sia andato. Tutti e due tornarono sul far del mattino. Gli avamposti hanno visto passare Sua Altezza. Una volta è anche sceso da cavallo e ha proseguito per un tratto a piedi. Fernando teneva intanto i cavalli. Sua Altezza si è accosciato a terra presso un caduto e ha preso la sua testa sulle ginocchia. Una sentinella avanzata lo ha udito parlare col caduto, ma l'uomo era morto da un pezzo. Sua Altezza non se n'è probabilmente accorto. La mattina dopo la sentinella andò a vedere il morto. Era un francese. E il giorno dopo? Sapevamo che Sua Altezza aveva proposto agli altri tre sovrani di prendere d'assalto Lipsia con le sue truppe. L'imperatore d'Austria, lo zar di Russia e il re di Prussia stavano ciascuno per conto proprio, su di un'altura, e guardavano coi loro cannocchiali. E noi, Dio mio, e sì, ci siamo riusciti. Villat appoggiò il capo sulla mano. Bernadotte ha preso d'assalto alla testa dei suoi soldati la cosiddetta porta di Grimma, di Lipsia. Noi avevamo davanti alla porta delle forti posizioni tenute dalla fanteria, ma Bernadotte fece appoggiare l'attacco dall'artiglieria pesante. Poi egli stesso con i suoi dragoni svedesi si slanciò in avanti. La nostra fanteria gli si buttò incontro squarciando il ventre dei cavalli a colpi di baionetta. Allora gli svedesi continuarono a battersi a piedi con le sciabole in pugno. Madame, era una carneficina di cui ancora non avevo veduto l'eguale, uomo contro uomo. Bernadotte sul suo cavallo bianco, nel folto della mischia, col suo pennacchio bianco che si vedeva da lontano, e la spada. La spada! Nel fodero! Non aveva in mano che il bastone di comando. Grazie, Villat. Da ultimo i francesi indietreggiarono, fuggirono anzi. No, ricevemmo l'ordine di ritirarci. Nel corso di 5 giorni avevamo sparato 220.000 colpi di cannone e avevamo munizioni per altri 16.000. Per questo l'imperatore ordinò la ritirata, disse Villat aspro. L'imperatore è fuggito per la porta occidentale quando Sua Altezza entrava in Lipsia, gli gridò Rosen. Gli ultimi 16.000 colpi di cannone sono stati sparati contro le truppe di Bernadotte. Bernadotte ha preso d'assalto Lipsia con 86 battaglioni di fanteria e 39 reggimenti di cavalleria. Rosen era sorpreso. Come fate a sapere questo con tanta esattezza, colonnello Villat? Villat alzò le spalle. Posso prendere ancora del caffè? Il brico è ancora sul fuoco, colonnello. E poi, conte Rosen, e poi? Poi Sua Altezza si è recato a cavallo sulla piazza del mercato di Lipsia e ha atteso. Ha atteso gli altri tre sovrani. Aveva preannunciato loro che li avrebbe rivisti sulla piazza del mercato di Lipsia e così se ne stava ora sul suo cavallo bianco e aspettava. Per caso furono fatti passare di là i prigionieri francesi. Sua Altezza teneva gli occhi socchiusi e io credevo che non li guardasse affatto, ma ad un tratto alzò il bastone del comando e indicò un colonnello. «Villat! Venite qui, Villat!» Io uscii dalle file. «Così ci siamo rivisti, madame!» «Villat! Che cosa fate qui?» mi domandò. «Difendo la Francia, signor maresciallo», risposi, e lo chiamai con intenzione e a voce molto alta, signor maresciallo. «Allora mi dispiace dirvi che la difendete molto male», disse Bernadotte. «Io credevo invece che foste rimasto presso mia moglie, a Parigi». «È stata la marescialla stessa a mandarmi al fronte». Allora lui tacque. Stavo presso il suo cavallo e guardavo i miei camerati che passavano. Da ultimo credetti che si fosse scordato di me e feci per ritornare con quelli, ma appena mi mossi Bernadotte si chinò sulla sella e mi afferrò per le spalle. Colonnello Villat, voi siete prigioniero di guerra. Io vi ordino di tornare immediatamente a Parigi e di prendere stanza in casa di mia moglie. Datemi la vostra parola di ufficiale francese che non abbandonerete mai mia moglie finché... Finché? Finché non verrò io stesso. Queste le sue parole. Io gli diedi la mia parola d'ordine. Chinai il capo. Udii la voce di Rosen. Allora Sua Altezza si voltò verso di me. E qui c'è il secondo fedele aiutante di mia moglie. Conte Rosen, voi accompagnerete il colonnello Villat nel suo viaggio a Parigi. In uniforme svedese? Domandai allibito. No, in fin dei conti gli alleati non sono ancora entrati in Francia. Sua Altezza guardò Villat. Colonnello, voi siete garante che Rosen arriverà incolume a Parigi e che le autorità di laggiù gli concederanno il diritto di asilo in casa di mia moglie. Rosen, a vostra volta voi custodirete il nostro prigioniero di guerra. Tutta questa faccenda mi sembrava piuttosto complicata. Ma chi è il prigioniero di voi due? Chiesi. Nessuno dei due mi ascoltò. Parlò ancora Villat. In tal caso dovrò fargli indossare un uniforme francese, altrimenti non riuscirò a farlo passare attraverso le nostre linee, signor maresciallo, dichiarai a Bernadotte. Mettetegli in capo un berretto di pelo d'orso, Villat, e voi, conte Rosen, portate il berretto di pelo con onore, sentenziò lui. E prima ancora che potessimo riflettere, comandò: Avanti! Marche! Arrivederci, conte! Arrivederci, Villat! Allora io procurai a Villat un cavallo e Villat scovò per me l'uniforme francese. Mangiammo un boccone in gran fretta e partimmo subito a cavallo. Da allora siamo stati continuamente a cavallo e adesso... Adesso ecco siamo qui, concluse Rosen. Un orologio suonò le 6:30. Le nostre truppe hanno tentato di fuggire oltre l'Ester, lì e annegato il maresciallo Poniatowski. E l'imperatore? Villat non rispose subito, poi disse: Spera di tenere in qualche modo il confine del Reno, se non vi riesce difenderà almeno Parigi. Appoggiai le braccia al tavolo della cucina e mi premetti le mani sugli occhi. Il confine del Reno. Come tutti allora erano corsi alle armi per difendere il confine del Reno. E come lo difesero allora? E Giambattista fu fatto generale.